Riconvocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. (800) 24 00 24, telefoni aperti fino alle 15:30, oppure potete scriverci SMS e WhatsApp, prendete nota, 349-238-6666. Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo, ciao. Come va? Come va? Bene. Oh, diamo un'informazione di servizio, Carlo è vivo e lotta insieme a noi e presto tornerà a questo microfono. Assolutamente. Quindi, questo per tranquillizzare tutti quelli che scrivono. Signor Genta, Signor Genta. Tornerà presto. Io avrei votato motoretta, Sì, io motoretta gliela elevo, lo porto io in macchina. Sì, sì, assomiglia un po' a, vabbè, possiamo dirlo, a Calamity Iannone. Vabbè, ma insomma, Carlo è bello e maledetto, quindi insomma, c'è una marcia in più. Gli mandiamo un grande bacio e lo aspettiamo. E lo aspettiamo. Oh, ha riscosso, carissimo Pier, grandissimo successo la provocazione di ieri su Vandanara. Dai, no, su se esiste o no maschilismo nel mondo del calcio, se le critiche a Vandanara sono solo perché la strategia con cui tratta il rinnovo con aumento di Cardi è discutibile o se invece c'è sotto qualcosa. Oh, sai cosa ha detto ieri Giovanni Branchini, che è uno dei procuratori più importanti d'Italia, del mondo? Ha detto: sono certo che la signora Nara, in quanto moglie di Cardi, sarà sicuramente un'ottima moglie e farà tutto quello che può per aiutare il marito. Però non so se ha esperienza di cosa significa trattare con le società. Siamo sempre questo, lì. Questo parallelismo. Sì, ma insomma. No, ma Branchini, che è uno dei boss, dei più bravi, dei più importanti, giustamente difende una cosa che è la professionalità della categoria in un mondo oltretutto estremamente deregulated, come dico in inglese, cioè senza grande regulation, abbastanza la giungla. Ed è chiaro che, insomma, se passa il principio che il fratello, la fidanzata, la moglie, il cognato di un calciatore, già semplicemente per il fatto che è parente, può fare sì, i tuoi interessi Pier, meglio però, di un professionista. Poi ne parliamo dopo il GR delle 15, ci sarà Pasqualin, che è il decano dei procuratori italiani. Però nessuno si sogna di dire, ad esempio, del fratello di Higuain: siamo sicuri che sarà stato e sarà sempre un ottimo fratello presente nella vita di Gonzalo. Però invece di Vandanara dicono: sarà un'ottima mamma, una brava moglie. Io continuo a... Aspetta, mi fate sentire, perché poi Vandanara continua a parlare, l'ultima puntata della telenovela Vanda, Tele Lombardia. La settimana scorsa erano 4 squadre un po' a litigare questa situazione, adesso si hanno messo 3 squadre in più, 2 sono italiane. Ah, ci sono 2 squadre italiane su Mauro Icardi, una è la Juventus. Quella era da prima, la Juventus. C'era già. Però l'altra qual è? Sì. Napoli? Sì. È il Napoli? È una squadra. Sì. Oh, quindi abbiamo scoperto ieri che c'è la Juve, il Napoli, c'era l'Atletico Madrid, lo sapevamo. Insomma, Vandanara va avanti con la sua strategia, che a me non piace. Però il fatto che la si critichi dicendo sarà sicuramente un'ottima moglie, io ripeto quello che ho detto ieri, lo trovo un po' maschilista. Sì, allora io penso che Vandanara abbia nello specifico una... chiaramente un'immagine anche alla luce della... cioè, Vandanara si è parlato tanto, no? Di gossip... Maxi Lopez, la stretta di mano mancata, quel famoso Sampdoria Inter, quindi insomma si è parlato molto di lei, anche perché lei è una certamente che sui social è molto attiva, lo stesso Icardi, il gesto delle corna, ti ricordo, insomma, quindi è chiaro che da questo punto di vista non rappresenta forse nell'immaginario esattamente, come dire, il professionista procuratore 100%, no? Quindi è una figura che può in qualche modo regalare agli appassionati di gossip. Detto questo, poi però secondo me il principio di Branchini, che io condivido, è un principio generale e vale pure per i fratelli maschi, vale pure per i cognati maschi, vale pure per i papà maschi, ed è un punto fondamentale che esiste una professione agente. Esisteva. No, come sai, l'albo è stato... Nel mondo dello spettacolo esiste, per esempio. Ah, certo, cioè nel mondo del calcio. Anche nel mondo del calcio, anche calcio. Sì, beh, insomma, da qualche mese ci si può far rappresentare da chiunque. Ma questo da una vita puoi farti rappresentare da chiunque. Io do la procura delle mie prestazioni a mio padre o a mia madre, va a trattare con Mediaset. No, ma non è questo. Il punto è che secondo me esiste una professionalità ed è importante, esiste un lavoro e questo lavoro deve essere retribuito e certamente, so, secondo me in generale per quello che vedo io nel mondo del calcio è una cosa che è utile, poi ovviamente ci saranno i giocatori che magari non si sono trovati benissimo con i propri procuratori e che a quel punto provano la carta. Hanno scelto. Poi magari dopo facciamo anche l'elenco, perché ho scoperto che sono più di quanti immaginassimo. Prima del traffico, volevo farvi sentire invece questa cosa di Spalletti, che per mesi, almeno noi abbiamo raccontato, ha fatto la guerra a Totti. Ieri all'improvviso gli allunga la carriera. Per quanto mi riguarda, Totti deve avere la possibilità di continuare a giocare. Perché ora scrivete che deve smettere per forza? Secondo me il tempo che intercorrerà da quando Totti può smettere di giocare all'ultima partita sarà breve. Non sarà forzatamente un anno. Perché lui deve poter smettere quando gli pare, come ho sempre detto io. Poi io guardo come si comporta, ma perché non lasciargli la libertà a un giocatore e dovergli caricare la responsabilità che questa è l'ultima partita, questo è l'ultimo campionato? Secondo me Spalletti si è fatto furbo, Pier? Ma guarda, la conferenza stampa di ieri è stato un vero show e francamente io non ho capito perché aprire questo file che in un momento in cui c'era volendolo parlare di altro. Per me rimane la sostanza dello scorso anno. Io l'ho detto tante volte, non ho apprezzato alcune uscite di Spalletti che mi sono sembrato un po' fuori luogo su Totti. Penso soprattutto a quella prima del derby in cui aveva parlato dei suoi dati atletici, sì. Nella partitella con la Primavera, oppure aveva detto che l'anno prima, nel famoso derby pareggiato 2-2 con doppietta del capitano, magari però Totti nel primo tempo non era stato all'altezza. Quella roba lì non l'ho capita, proprio non l'ho capita. Detto questo, il dato oggettivo è che Spalletti ha vinto. Spalletti ha fatto un grande lavoro e Spalletti, per quanto possa sembrare incredibile che un campione come Totti possa avere comunque bisogno di uno stimolo in più, è riuscito anche, non sarà stato lui, non lo so, però comunque ha tirato fuori il meglio. Sì, Pier, però è impensabile che si riparta col tormentone, cioè la prossima è l'ultima stagione di Francesco Totti, è stato detto chiaramente anche al momento della firma di quel rinnovo che Totti si è guadagnato, come abbiamo visto tutti sul finale di stagione. Comunque è anche questo un tema, 800 24 00 24, c'è anche quello di Eder che forse va in Cina e vorrei sapere cosa ne resta della nazionale azzurra a settembre, quando Ventura deve fare subito punti. C'è Klopp che ha scaricato Balotelli e ha detto è bene che si trovi un'altra squadra perché in questo momento non è in grado di lottare per una maglia. Come volete voi, 800 24 00 24, traffico e torniamo. Mi sono divertito, penso che un giorno di titoli siano più che sufficienti, oggi si parla di cose più serie. Tutti convocati. Convocati. Sono qua, sono molto contento, si lavora tanto, l'ho capito subito, ma sicuramente c'è una differenza da dove sono stato in passato e dove sono oggi. La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Se dice che lì sono più bravi e che lavorano meglio, io purtroppo non ho avuto la possibilità di lavorare nella Juventus. Io di grande squadra ho lavorato solo nella Roma e so come si lavora alla Roma. Se lo dice lui è sicuramente un ambiente dove lavorano bene, perché lui è un professionista, uno che ha qualità, per cui sa accorgersi della qualità altrui. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Ho passato 5 anni bellissimi in quella città, in quella società, ma dalla prima giornata in poi sarò sempre concentrato sulla mia nuova squadra, sui miei obiettivi e semplicemente di raggiungere tutti gli obiettivi che ci metteremo tutti insieme. So che sarò fischiato probabilmente perché non è mai facile cambiare squadra, ma io oggi sono contento e sarò sicuramente molto contento di ritrovare tutto l'Olimpico e tutta la squadra della Roma. La differenza tra me. Ieri intanto saluto Stefano Colantuono che ci ha raggiunto. Grazie, buonasera, buon pomeriggio. Buonasera. Pier, altro tema. Ieri molti tifosi della Roma si sono un po' offesi, se la sono presa per le parole di Pjanic, che è arrivato da una settimana a Torino e ha detto: adesso ho capito la differenza tra qui e dove ho giocato prima. Insomma, e ho capito perché alla Juve vince, alla Juve si vince, dalle altre parti no. Pier. Ah sì, ma anche Shevchenko baciò subito alla Community Shield, alla prima partita baciò la maglia del Chelsea e quelli del Milan si arrabbiarono. Io credo che ogni giocatore sia diverso e sceglie una strategia più o meno lucidamente, più o meno in maniera volontaria sceglie una strategia di comunicazione. Che Pjanic possa essere rimasto colpito dall'organizzazione della Juve non mi sorprende, perché la Juve è un'enorme organizzazione. Che in 4 giorni o in 10 giorni abbia capito perché la Juve vince, la Roma no, mi sembra francamente una forzatura, cioè voglio dire, è un genio. La verità è che la Juve vince perché è una grande squadra abituata a vincere, sì, ed è una grande questo società. Questo Pjanic lo poteva capire anche prima, ecco, no? Si capiva... E la Roma è un grande progetto in crescita, come del resto anche il Napoli, molto cresciuto negli ultimi anni, al quale è mancato ancora qualcosa per arrivare alla vittoria. Come la pensa Colantuono su al di là insomma sì, di queste frasi un po'... Sono d'accordo con Pierluigi, insomma, sono domande alle quali i giocatori a volte dovrebbero un po' venirne fuori meglio, insomma, perché credo che andare a fare paragoni dopo 4 giorni sia molto riduttivo. Poi che la Juventus è una grande squadra lo sappiamo tutti, altrimenti non avrebbe vinto con continuità lo scudetto negli ultimi anni. Ma lo stesso caso vale per la Roma è una grandissima società. È chiaro in questo momento, forse rispetto alla Juve, per quello che dicono i numeri, però per quello che dice la classifica sta dietro, però insomma il modo di lavorare insomma non lo lascerai perdere, perché oggi perlomeno in Italia gli allenatori sono tutti preparati, gli staff tecnici sono all'altezza e quindi le metodologie di lavoro sono uguali. Poi è chiaro che la qualità del giocatore fa la differenza. Oggi Juve a maggior ragione, arriva Pjanic tolto alla Roma, gli altri sono ancora fermi, non uno, forse due passi davanti agli altri in Italia. Per ora sì, però come sappiamo in Italia il mercato si concentra poi nelle ultime 2 settimane finali e quindi, salvo poi qualche operazione da un po' in questi giorni che verranno, però poi il grosso si concentra nelle ultime 2 settimane e quindi vedremo poi alla griglia di partenza come saranno formati gli organici. Pier? Sì, beh, sicuramente. La Juve fin qui ha fatto un mercato da martello, diciamo, non da incudine. Ha fatto un mercato in anticipo, ha comprato giocatori, poi bisogna aspettare la fine, anche perché è possibile che, visto che poi è sui giornali tutti i giorni, che ci possa essere anche qualche mossa in uscita. Sì, tra l'altro voce delle ultime ore c'è Zaza anche, che parrebbe in uscita verso il Wolfsburg. Detto questo, Bonucci a 60 piuttosto che Pogba a 100-120 porterebbero soldi. Ma io credo che non partiranno, Pier. Io non so cosa ne pensa Colantuono, ma mi sto facendo quest'idea col passare delle ore. Ma Pogba, sai, l'offerta è veramente grande, insomma, al di là del valore tecnico possiamo dire tutto il bene possibile di Pogba, però l'offerta insomma è grossa veramente, per cui è normale che credo la dirigenza juventina ci possa pensare un attimino, e per quello che riguarda invece Bonucci credo che rimarrà là. Credo anche che una delle differenze tra Juve e Roma in questi ultimi anni è stata anche proprio nella possibilità di non vendere, cioè di poter scegliere cosa fare e cosa no. Cioè la Juve, la forza della Juve è poi la forza della nazionale, ed è in quel pacchetto difensivo. Pensa a quello che ha fatto la Roma in certi anni, che è straordinario, perché la Roma ha preso 2 giocatori come Marquinhos e Benatia e ha fatto delle plusvalenze prodigiose, quindi applausi a Sabatini che ha portato un sacco di soldi alla società. Però è chiaro che ogni anno devi ricominciare da capo, quest'anno ricominci con Jorge Jesus aspettando Rudiger, cioè è ovvio che non è la stessa cosa, no? È ovvio che Barzagli, Bonucci, Chiellini e Buffon sono 4 che nel buio in una notte d'estate uno sente la voce dell'altro e la riconosce di tante 5 chilometri, perché sono talmente affiatati e talmente abituati che questo alla fine rappresenta un vantaggio. Io non dico che la Roma abbia fatto male a vendere Benatia, anche perché certamente Benatia voleva andarsene, quindi non c'erano alternative, e non penso neanche che abbia fatto male a vendere Marquinhos. Ma poi soprattutto non ci sono alternative, cioè mai avrebbe venduto Pjanic per una questione tecnica e tattica. Pjanic, Benatia, Marquinhos, tutti gli altri vanno via anche per ragioni strettamente di bilancio e di mercato. Volevo chiedere a Stefano Colantuono, oggi c'è la prima pagina del Corriere dello Sport con Giaccherini, Pereira, hai visto Higuain va convinto del progetto Napoli. Il mio parere personale, Giaccherini e Pereira, ottimi giocatori, però per convincere Higuain serve altro. Beh, intanto Higuain ha un contratto, per cui credo che Higuain non deve neanche dimenticare che, insomma, che quello che ha fatto a Napoli in carriera, non gli era capitato di fare tantissimi gol, ci mancherebbe, ma non di segnare con la continuità che ha segnato a Napoli, per cui significa che il lavoro fatto e lo staff, mi riferisco a Sarri e al suo staff, che l'ha messo in condizione di lavorare così bene, insomma, lui una cosa del genere non la deve dimenticare. È chiaro che Napoli, se vuole avvicinarsi alla Juve e per competere con lo scudetto, insomma, come per un tratto aveva fatto l'anno scorso, deve rinforzarsi. Io credo che Giaccherini, tornato in Italia, visto anche in nazionale, è un buon giocatore, è un ottimo giocatore. Sì, però serve un colpo da copertina. Adesso sì, è di queste ore che Witzel probabilmente salta per la millesima volta per la questione dei contratti sui diritti d'immagine. Ma risultava che lui aspetta la Juve. A proposito, è normale che, è chiaro che una società, se poi subentra una società come la Juve, che in Italia oggi è la società che ha più appeal, è inutile nasconderlo, questo qui non se la prenda nessuno, è normale, no? quella che vince sempre, quella che va avanti in Champions League, per cui è normale che poi un giocatore, se c'è di mezzo la Juve, possa un attimino ripensarci. Però io credo che Napoli è una grande società, ed è una società che sta in forte crescita. Il campionato dello scorso anno è stato veramente strepitoso, soltanto uno squadrone come la Juve poteva non gli ha permesso di vincere lo scudetto, però ecco, credo che con un colpo, come appunto dicevamo poc'anzi, possa quantomeno avvicinarsi di più e rendere la vita più difficile alla Juve. Sì, possa accendere un po' l'entusiasmo. Abbiamo pochi istanti prima della borsa, allora rapido sondaggio con tutti e due. Chi ha ragione tra Mancini e i cinesi? Cioè Mancini che vuole i giocatori pronti per far subito il salto di qualità e i cinesi che magari ipotizzano anche di spendere 30-40 milioni di euro ma su qualcuno forte in prospettiva, sempre che poi si confermi, eh? Dai, chi comincia? Però sbilanciatevi, eh? Vai, Gianluigi, ha ragione Mancini, però io devo dire la verità, perché poi insomma non è che uovo fare 0-0 tutta la vita. Io considero Mancini un grande allenatore, uno che ha vinto, e non sono molti gli allenatori che hanno vinto, però capisco pure che, insomma, lui in questi anni i soldi li ha spesi. Quindi proprio lo dico con la massima onestà, glielo direi anche a quattro occhi a Mancini, e lo sa probabilmente anche lui. Quando Mancini è arrivato, dopo la pioggia, dopo l'addio di Mazzarri, insomma, ha fatto una campagna acquisti a gennaio, ha fatto una campagna acquisti a giugno. Cioè, io posso anche capire che i cinesi possano avere una prospettiva un po' diversa. Detto questo, Mancini ha ragione, perché è chiaro che se vuoi, cioè, l'Inter è parecchio che non vince, ha bisogno di risposte. Lui poi è un allenatore grande, nel senso un allenatore di livello, abituato a portare grandi traguardi. L'idea di costruire un Inter di prospettiva, posso capire che non lo attira, però capisco pure, e questo è vero, è oggettivo, insomma, perché sennò poi giriamo attorno alle cose. Mancini è un grande allenatore, però sicuramente in questi 2-3 anni ha avuto risorse, ha fatto delle cose, ha fatto delle scelte, e i risultati, insomma, tu dici. Alla fine il risultato è stato sempre quello. Questa cosa con l'Antuono, poi c'è la borsa, c'è chi scrive: hanno ragione quelli che pagano. Beh, insomma, nel calcio non è sempre questa l'equazione. È così. Sì, infatti la questione non è detto che poi a investimenti importanti si riesca a raggiungere l'obiettivo. Sicuramente hai il percorso più facile, meno irto di insidie, però se vuoi vincere subito, condivido ancora una volta quello che ha detto Pierluigi, no, perché siamo amici, ma perché è la verità, insomma. Cioè, se vuoi vincere parla subito, con un libro stampato, eh. C'è chi ha scritto chiedendo la procura per andare a trattare per Pardo da Mediaset, eh. Poi ti giro il numero. Se vuoi vincere subito devi mettere mano al portafoglio, però è anche vero che in questi anni comunque l'Inter ha speso e poi è arrivata molto lontano dalle prime. Va bene. Questo dice la classifica. È vero, anche se scusate, poi abbiamo la borsa che è sacra. Anche se spezza una lancia a favore di Mancini, lontanissimo da un terzo posto, 80 punti, che non è mai stato così alto nella storia dei campionati a 3 punti a 20 squadre. Perché bisogna anche dire questa cosa. Grazie a Stefano Colantuono. Un tipo di accusa a Mancini, Mancini è un grandissimo professionista. Stiamo ragionando. Grazie, sono Stefano. Grazie a voi. Grazie a Stefano Colantuono. Poi ti giro Pier adesso, durante la borsa, il numero di chi vuole la tua procura: 800-24-0024. Dipende. Non si diventa ricchi. Magari è donna e ti sposa. Che ne sai? Si costruisce la grana. Sono già sposato. Si può costruire una grande amicizia, ecco, Ricchi e Caso e Pepe. Borsa, Mancini. Borsa. Mancini ha vinto, Sì, ne ha vinto, vinto. Però anche spendendo è vinto, che in questi anni probabilmente anche lui sperava di accorciare. Lui l'anno scorso ha detto puntiamo al titolo, non l'ho detto io. Quindi è ovvio che un po' di delusione ci sia stata ed è possibile che chi quest'anno gli deve dare le mani e le chiavi in mano per fare il mercato possa decidere un approccio un pochino più di lungo periodo. Borsa. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Si ricomincia. Tutti convocati. Allora, scrive un amico, 349-238-6666, Mancini può sbagliare come tutti, ma sui dinosauri che vuole lui sta sbagliando. Questo è Danilo, via SMS. Bah, io, lui ad esempio vuole Candreva, Candreva non andrà all'Inter, sta trattando col Napoli, anche se c'è la solita questione dei diritti d'immagine che allunga la conclusione di questo affare. Ad esempio Candreva secondo me non è un dinosauro, è un giocatore che potrebbe far fare in fretta un salto di qualità all'Inter. Su Yaya Touré possiamo essere d'accordo, però non tutte le richieste di Mancini necessariamente sono sbagliate, così come non tutto nel mercato di Mancini nell'ultimo anno e mezzo è fallimentare. Un giocatore come Brozovic non è sbagliato, Perisic non è sbagliato. Fabrizio dalla provincia di Terni, 800 24 00 24. Buongiorno, grazie per avermi convocato innanzitutto. Grazie a te, dai. Volevo parlare dei possibili attaccanti, uso il plurale, che potrebbe acquisire la Juve, perché stando alle ultime notizie pare che anche Zaza sia in procinto di avere un accordo, di trovare un accordo con il Wolfsburg. Ecco, chiedevo a Pierluigi Pardo se ancora sì, in è qui, linea. È qui. Vai. Qual è in realtà il vero obiettivo della Juve? Perché mi sembra evidente che Allegri quest'anno, lo scorso anno, abbia puntato su Dybala e Mandzukic, quindi un giocatore sicuramente da boa, da aria di rigore come Mandzukic, e poi una seconda punta, un trequartista, comunque un fantasista in grado di girare intorno alla prima punta. Partito Morata e con la possibile partenza di Zaza, qual è il reale obiettivo della Juve, visti i tanti nomi, la girandola di nomi che si fanno, che poi si parla di Sanchez, sì, si parla... Io ti posso dire che da gennaio sicuramente c'era in cima tutto Cavani, che però è diventato molto complicato. Pier. Higuain, prossima telefonata. No, scherzo, è una battuta. No, dopo devi avere il coraggio di ripeterlo a qualcuno che inviteremo. È una situazione di quello. No, io penso che Higuain sia il sogno di tutti. E quindi non mi sorprenderebbe se la Juve tentasse di fare dei sondaggi, ma credo anche che per il tipo di situazione che c'è, ovviamente, per la legittima rivalità sia un'ipotesi impraticabile. Io penso che Cavani sia la soluzione più semplice, però credo che Cavani, se arriverà negli ultimi giorni, ed è una bella soluzione Cavani. E poi penso che l'evoluzione di quello che succederà all'Arsenal è abbastanza interessante, nel senso che poi questi meccanismi sono meccanismi di porte girevoli. Quando ieri abbiamo letto dell'offerta dell'Arsenal di 60 milioni di Giroud per Higuain, io non so se sarà poi veramente portata avanti questa strada e se il Napoli dovesse accettare, però a quel punto è chiaro che l'Arsenal potrebbe anche decidere di monetizzare con pensa Sanchez. Che giro Higuain che va a Parigi o a Londra libera un giocatore per la Maraviglia, Juve, questo lo posso dire per certo, mentre su Higuain era così una mia valutazione, ve lo fa un po' il fenomeno. Per quanto riguarda il discorso del Niño Maraviglia, non ho dubbi, cioè che lui sia nel cuore, nei pensieri della Juve, che ci siano stati anche dei sondaggi, questo lo do praticamente per certo. E poi le strade sono tante, perché per dirti Morata è uno che a certe condizioni sarebbe ottimo riuscire a far rientrare, però Morata si lega a un'eventuale partenza ad esempio di Pogba. No, cioè, l'ipotesi Morata è stata tirata in ballo, cosa che evidentemente credo alla Juve non prendano in considerazione, appunto, con questo automatismo. Posso dire, secondo me la verità è che questa risposta forse non c'era neanche Marotta, non c'era neanche Allegri, nel senso che il mercato, lo sappiamo, è un mercato di occasioni che si presentano, di opportunità. Se ti devo dire un nome, ma non è soltanto per la Juve, ma per chiunque, l'attaccante dei sogni è Higuain, non è che c'è da girarci. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano gli amici tifosi della Juve, 800 24 00 24, meglio Higuain, Cavani o Sanchez? Se proprio deve arrivare uno, scegliete, dai. Claudia Schiattone dice Sanchez assolutamente no, lei preferisce tenersi Zaza forse, non lo so. Carlo dalla provincia di Como. Carlo, Carlo, sì, eccoci. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Io volevo rilasciarmi al contesto dei procuratori. Sì. Sarà possibile. A mio avviso in quel campo ci vogliono persone molto molto qualificate e soprattutto specializzate appunto nel contesto del calcio, perché non è soltanto il fatto di avere l'ingaggio migliore, ci sono parecchie voci tipo l'immagine, tipo i bonus, tipo, che le persone come la moglie di Icardi, la moglie di Icardi, però possiamo dire una cosa che sgombera il campo: non è che la moglie di Icardi fa tutto da solo, cioè si appoggia poi a delle figure professionali che l'aiutano, diciamo banalmente dei commercialisti, ma anche dei professionisti vicini al mondo del calcio. Fa la front woman, che è un lavoro che 50% relazioni, forse qualcosa di più, e 50% diciamo competenza. E lei fa il primo 50%, tecnica, fa bene o male, non lo so, meno. Ognuno quindi, pensi. È chiaro, noi abbiamo assistito, ma lo diciamo con grande rispetto, cioè il caso di Raiola è un caso di scuola, perché veramente Raiola aveva un ristorante, una pizzeria, e da lì sono cominciati ad arrivare dei personaggi, ha cominciato a organizzare con le sue lingue che conosceva, magari non in maniera perfetta, però... Cioè, voglio dire, chapeau, proprio chapeau, mi tolgo il cappello di fronte a una persona che quasi dal nulla riesce a costruire un impero. Vuol dire che ha un'empatia, vuol dire che ha una capacità nel trattare con le persone straordinaria, ragazzi, che vogliamo fare? Guarda, intanto, abbiamo lanciato il sondaggio, c'è Serafino che dice Cavani tutta la vita, c'è un amico Chris che dice la Juve vende Zaza e con i soldi di Zaza, di Morata, più Rugani, va dal Napoli e si prende Higuain. Ma il Napoli non glielo dà. Ma che ne sai tu se il Napoli glielo dà? No, no, va lì con 94 milioni. Massimo, dalla provincia di Vicenza. Sì, salve, grazie. Io ringrazio per eccoci l'opportunità. E niente, volevo agganciarmi al discorso procuratore. Sì. Prima abbiamo parlato anche di Mario Balotelli. Allora, una domanda semplice. Secondo voi un giocatore come Mario Balotelli, se non avesse avuto un procuratore come Mino Raiola, sarebbe dove adesso, e soprattutto prenderebbe un ingaggio così alto? Sì, oggi è senza squadra, però, cioè è a Liverpool, ma vi leggo quello che ha detto Klopp. Ho parlato chiaramente con Balotelli, non è nella fase della sua carriera in cui può lottare con altri 4-5 giocatori per il posto in squadra, quindi bisogna trovare una soluzione e in fretta. Oggi è così Balotelli. Io non so, è anche aperta la discussione se Mino Raiola abbia fatto il bene o il male di Balotelli in generale, Piero. Però ragazzi, gli uomini sono uomini, cioè alla fine Mino Raiola, io sì, anch'io non lo so se ha fatto il bene o il male, però Mino Raiola alla fine ha dato anche delle opportunità a Balotelli, cioè se Balotelli avesse avuto, io spero di sbagliarmi, nel senso che spero che abbia ancora delle possibilità, anche perché mi è umanamente molto simpatico. Voglio dire, se avesse avuto una pasta diversa di fronte a certe avversità, di fronte a certi stimoli, a certe situazioni, avrebbe avuto ragione Raiola. Cioè, non è che si può dare la colpa a Raiola. Certamente Raiola, fra tutti gli agenti, è uno aggressivo. Cioè, è uno che ti trova le squadre, che qualche volta si mette a fare dei bracci di ferro abbastanza pesanti. Che sì, è anche uno che non ha paura di esporsi. Non ha paura di esporsi. Non sempre strategie comunicative condivisibili come quella di Vandanara. Però nessuno si è mai sognato di dire... Però non è male, però, cioè, non so come dirti. Io... No, tu lo prenderesti? C'è Mario che si è candidato, quello di prima. Però se gli diciamo di no, scegli Mario. Scegli Mario. La simpatia di Mario, sì. Adesso c'è il traffico. Adesso c'è il traffico. Poi, quando torniamo dal traffico, carissimo per Luigi Pardo, dovrei dire in faccia a una persona che la Juve prende Higuain. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. El ritmo del pipita se siente siempre más, chocamos mamacita, come on and shake your ass. El ritmo del pipita se siente siempre más, chocamos mamacita, come on and shake your ass. Flaco, es como un gol del pipita. C'è anche chi chiede che cosa fa poi il Napoli se ha in mano 94 milioni di euro, però, carissimo Boris Sollazzo, ciao. Buongiorno, io ce l'ho un'idea di cosa fanno i 94 milioni aspetta, di euro. Aspetta, perché te la faccio cambiare subito. Pier? Eccoci. Allora, prima abbiamo un ascoltatore ha chiesto, chi compra la Juve? Pier, di rispondere o no? No, davanti. Non ha chiesto chi compra la Juve, ha chiesto chi c'è in cima ai desideri della Juve. No, ha detto chi prende, guarda che, si, no, guarda che sta facendo Cavani. Però tu prima hai detto Higuaín. No, io non ho detto prende Higuaín, ma per un motivo semplicissimo, perché il Napoli non glielo dà. Adesso andiamo a prendere la registrazione. Boris, lo vendete? No. No, ma non lo vendiamo per il semplice motivo. Non lo vendiamo alla Juventus. Ecco, non lo vendono alla Juventus, ma giustamente. Mi sembra esagerato, nel senso che non siamo una squadra come la Roma che ha bisogno di vendere Pjanic entro il 30 giugno. Ci sono delle riserve, quindi sono sicuro che De Laurentiis sa che può costargli molto di più vendere Higuaín alla Juve che venderlo a chiunque altro. Poi devo dire, se io mi devo giocare 100 euro me lo gioco sul fatto che Higuaín e Koulibaly quest'anno torna, non se ne vanno. Poi con ogni probabilità, con lo schema Lavezzi e Cavani, ci sarà un finto rinnovo e se ne andrà il prossimo anno. In ogni caso mi sembra un finto problema, perché se la proposta dell'Arsenal è 60 milioni di euro più Giroud, non casco proprio rovinosamente. Tu lo venderesti, tu per 60 milioni più Giroud lo sei di quelli che porterebbe Higuaín a Londra? No, io per 94 secchi, perché sì. Giroud non è un cavallo che mi interessa, però dà l'idea che l'Arsenal lo valuta almeno 80 milioni di euro. Credo che sia una cosa minimamente intelligente, un giocatore di 29 anni. Penso che se la Juve pensa a vendere Pogba a 120 e Bonucci a 60, non è un peccato che il Napoli pensi a vendere Higuaín a 95. Poi, secondo me, da quello che so io, dalle impressioni che ho io non credo che quest'anno Higuaín se ne andrà, e anzi credo che nei primi giorni di Di Maro, addirittura verso il 20-25 luglio, lui smentirà quello che ha detto il fratello, perché credo che sia in atto un gioco delle parti. Più facile smentire un fratello di una moglie, vorrebbe dire. Ma secondo me, da una parte Higuaín vuole prepararsi l'uscita e vuole prepararsela come hanno fatto Lavezzi e Cavani, dall'altra De Laurentiis vuole dire alla tifoseria che mantenere Higuaín è come un grande acquisto, forse perché quel grande acquisto non lo vuole fare. Sì, cioè, giustamente qualcuno ci ricorda che la clausola di rescissione è scaduta il 30 giugno, cosa che è vera, cioè da oggi uno può anche mettere 94 milioni 700 e spicci, e comunque deve avere l'ok di De Laurentiis. Il Napoli non lo vende alla Juve, però che la Juve abbia giustamente, come tutti, in testa Higuaín, questo io non ho un dubbio. Ma io ricordo ancora i fotomontaggi dei tifosi della Roma con Higuaín con la maglia della Roma. Insomma, a desiderare Higuaín possono farlo tutti, poi ad avercelo siamo noi, insomma. Sì, almeno fino a che non si capirà se a terra o no a Di Maro. Ci sono tanti napoletani che stanno guardando con preoccupazione la vicinanza di quella data. Un Napoli più forte vendendolo bene. Sì, per carità, la regola Ibrahimovic insegna che vendi il campione e costruisci il triplete. Però quello che dico, bisogna anche vedere la memoria storica. De Laurentiis non è uno abituato a fare grandi cessioni troppo in là nel calciomercato, perché siccome le sue trattative non sono velocissime, poi ricostruire la squadra è un problema, quindi di solito li vende in fretta. Adesso siamo già un po' troppo tardi rispetto ai suoi limiti, e questo dovrebbe essere un ulteriore indizio. Poi francamente, quando hai un giocatore come Higuaín che se resta fa 30 gol e se se ne va ti frutta, anche diciamo che lo vendiamo scontato 80 milioni di euro, puoi stare tranquillo, insomma, soprattutto se non hai bisogno economico di venderlo. 30 gol vediamo, cioè non sei pensato come l'anno scorso. 60 non ti piace, no, giusto? Ma però già Welbeck più 60 mi piace. Welbeck, ecco, più 60. Icardi più 50? Magari subito, quello subito, anche perché il prossimo anno ha 30 anni Higuaín, e io sono convinto che come Cavani Higuaín non farà mai più così bene come ha fatto a Napoli. Cioè Higuaín deve anche valutare quanto bene gli ha fatto Napoli, non solo il contrario. Però posso dirti una cosa, Pier, ovviamente... più 50, Higuaín ha quasi 30 anni, quindi i cinesi non lo prendono. Icardi più 50 è un discorso diverso, non è un discorso di cessione all'Inter, è un discorso di cessione da qualche altra parte dove possono presentarsi con 90 milioni. Se è più giusto dire Icardi più 40, è il modello Icardi Cavani, più 40, Cavani a 64 e compri a 37 Higuaín. Sì, ma è il motivo per cui secondo me Giroud non è l'uomo giusto, che non è il profilo uguale a quello che sceglierebbe De Laurentiis. Abbiamo un minuto e mezzo, Però volevo sapere da Boris Sollazzo se, come titola oggi quella bellissima prima pagina del Corriere dello Sport con Pereira e Giaccherini, hai visto Higuain? Secondo lui Higuain, ma anche Boris Sollazzo, è un po' più sollevato dal fatto che arrivino Pereira e Giaccherini. Ma io credo di sì, nel senso che poi Higuain secondo me deve parlare con Sarri se è vero che ha questi dubbi. Io credo che Giaccherini sia il migliore italiano di questo europeo e non si possa negare. Sia un giocatore d'esperienza, sia un giocatore che nella scuola Juve ha imparato un certo tipo di mentalità. Pereira viene dalla Juventus, è vero, è una riserva, però possiamo dire che con Tonelli, Pereira e Giaccherini la squadra è migliorata e soprattutto si è dato un segnale. Poi ci sta ancora un mese di mercato e a quel punto non si sta parlando di un giocatore dell'Empoli, non si sta più parlando di un giocatore dell'Empoli, Witzel magari salta, però lo hai trattato, cioè hai dato un segnale diverso rispetto a quando ha parlato Nicolas. Poi bisogna vedere quanto fossero vere e quanto fossero pretestuose le parole del fratello, perché niente di più facile che sia semplicemente un modo per trattare appunto un'uscita a lungo termine. Certo, grazie Boris. Grazie a voi, a presto. Grazie Boris Sollazzo. Mi annoiano quelli che scrivono Higuain 36 gol 0 titoli. Ma cosa vuol dire? Higuain ha fatto una stagione straordinaria. Abbiamo il GR. Ti saluto Pier, a domani. Allora, il giocatore più forte della storia del calcio italiano, grande giocatore per carità, dovrebbe essere Furino. Sì, no, al quale mandiamo un saluto. Per anni è stato il privatista mondiale di scudetti, però non è che è il giocatore migliore, insomma. Gigi Riva, vai. A domani Pier. Furino è una Gigi Riva. Sì. A domani Pier, a domani. 800 24 00 24. Torniamo dopo il GR delle 15. E l'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari, si va ai supplementari. La partita si allunga, in molti l'avevano previsto. Tutti convocati. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza, Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere. E ascolta. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Se la Juve cerca un giocatore come Higuain o un altro di un'altra squadra e che verrebbe qua, non mi sorprenderebbe, perché la Juve fa in modo che i giocatori vengono qua e fanno in modo di vincere tutte. Ogni giocatore vuole vincere trofei e in questa società qua lavorano molto bene per mettere in modo che si vince, quindi chiunque verrà qua non sarei sorpreso. E Pjanic era in vena di far arrabbiare tutti, questo era Pjanic su il fatto che non è sorpreso di eventualmente trovarsi Higuain l'anno prossimo nella Juventus. 800 24 00 24, prenotatevi, abbiamo ancora una mezz'oretta da stare insieme, oppure 349 238 6666, via sms, via whatsapp. Giuseppe, buongiorno. Eccoci. Tre considerazioni. Sì. Uno, ci siamo mangiati l'europeo, perché ci siamo mangiati l'europeo. Sì. La squadra che avevamo, secondo me, era più forte di quelli Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, eccetera, eccetera. Più forte non lo so, ma di sicuro siamo usciti al diciottesimo rigore con la Germania, quindi. Stava andando a migliorare più che altro, ogni partita che facevamo. La seconda, Higuain sarà impossibile che verrà alla Juve per due motivi. Uno, perché l'ha perso 3 anni fa, quando costava 40 milioni. E due, quando De Laurentiis sicuramente non lo venderà la Juve, non va a rinforzare la Juve. Sì, lo crediamo anche noi, però è vero che la Juve un anno fa, a primavera, quando ebbe la certezza che Tevez sarebbe partito alla fine della stagione, terminata poi con la finale di Berlino, la prima telefonata fu a De Laurentiis, tra l'altro fatta da Andrea Agnelli direttamente, a De Laurentiis per capire se c'erano margini per trattare Gonzalo Higuaín. Quindi in cima ai desideri c'è sempre stato e c'è probabilmente anche in questi momenti, insieme a Cavani, che da gennaio la Juve prova a prendere costruendo un affare non semplice. Però Carmine, dalla provincia di Bari, Carmine. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, dai. Avevo una considerazione e una domanda a mister Colantuono, se ancora... No, non c'è, però vai con la considerazione. Sì. La considerazione riguarda le dichiarazioni di Pjanic, che penso non abbia detto niente di offensivo nei confronti della Roma, semplicemente ha notato che la Juve lavora in una maniera diversa e ovviamente se vince gli scudetti vuol dire che la Juve qualche lavoro in più rispetto alle altre le faccia, quindi non penso che un tifoso della Roma si debba sentire offeso da queste parole. No, però Carmine, io non so se sei d'accordo, il tema non è tanto soltanto quello che ha detto Pjanic. È questa cosa, la diceva anche Colantuono, cioè che i nuovi arrivati immediatamente si sentano nella necessità di dover fare un paragone tra dove sono arrivati, magari sono atterrati lì da 3-4 giorni, e il club, magari fiero rivale, con cui hanno giocato per 4-5 stagioni sino a 2 mesi fa. È lì, credo, il nodo. Saluto Claudio Pasqualin, decano dei procuratori italiani. Pasqualini, ringrazio, buongiorno. Cordialmente, ciao a tutti. È quello che dà fastidio, no, ogni tanto, di queste dichiarazioni con cui i nuovi arrivati entrano nel nuovo mondo. Il paragone immediato con quello che hanno appena lasciato, ed è lì che sale sulle ferite dei tifosi. Parliamo di piani, cioè di quello che ha detto il paragone tra Juve e Roma. Ah, ecco, sì, non capivo. Mi hanno appena collegato. Sì, effettivamente non è molto elegante, ma pretendere l'eleganza da questi ragazzi è un po' troppo. Quella che una volta era una qualità fondamentale era anche una certa qual maturità, anche saper stare in equilibrio, se vogliamo. C'era anche forse un eccesso di conformismo, ma adesso insomma gli schemi invece sono saltati, e a partire peraltro dai consiglieri di questi giovanotti. No, vediamo che ne capitano di tutti i colori, insomma, e si è dato libero accesso a, come dire, giocolieri, nani, ballerine. No, ballerine no, però allora facciamo così. No, aspetta, ma io lo so, ma noi l'abbiamo chiamato apposta Claudio Pasqualin, perché noi da 2 giorni combattiamo questa battaglia su perché tutti se la siano presa con Vandanara. Allora, ultimo capitolo e poi ne parliamo con Claudio Pasqualini. Sono certe società che valorizzano i giocatori, ti chiamano e ti dicono per questo che hai il contratto basso ti voglio fare un rinnovo. Questo non si deve chiedere. Mauro l'anno scorso aveva un contratto che ti faceva ridere e la gente magari non lo sa, però lì sì, si sa, poi lo sanno perfettamente questa cosa. Vanta, mi abbracci forte, poi mi dai un bacio e poi mi dici frasi che non mi hanno detto mai, carezze qui. Le parole di ausilio sono rimaste un po' male, perché io personalmente ho parlato con lui e a me mi è stato comunicato un'altra cosa. Non ho dato mai niente piano. Mauro da 2 anni che lascia un secondo piano il discorso stipendio, il discorso Champions League, il discorso di tutto. Lui sempre mette come primo la squadra. Prima per Mauro c'è l'Inter e questa è la verità, e io dall'anno scorso che ho fatto il rinnovo, che sto lavorando per il bene di Mauro, per quello che vuole Mauro, che lo so che è l'Inter. Oh, questa è l'ultima Vandanara, quella di ieri sera a Tele Lombardia, Claudio Pasqualin. Io sostengo che la strategia comunicativa di Vandanara è criticabile, ma come quella di tanti altri procuratori, ma ci sia un po' di accanimento sul fatto che lei è Vandanara, è moglie, l'abbiamo letto prima, Branchini che dice sarà certamente un'ottima moglie ma gli manca l'esperienza come procuratrice. Cioè, perché ce l'hanno tutti con Vandanara? Ma io non lo so se ce l'hanno con Vandanara, io di sicuro non ce l'ho con lei, ma ce l'ho con il signor Blatter e con il signor Tavecchio. Con il signor Blatter perché ha, come dire, partorito il concetto della cosiddetta deregulation, volendo in qualche maniera abolire la categoria dei procuratori e sostanzialmente, come dire, omettendo quei criteri di competenza e di professionalità che una volta, se non altro perché dovevi superare un esame, erano sicuramente più facilmente riscontrabili, no? E in Tavecchio, perché è partito da quel ragionamento lì e ha, dato che ogni federazione nazionale era libera di parare delle norme per spiegare il concetto, Tavecchio l'ha applicato malissimo e ha partorito un regolamento, diciamo così, abominevole, laddove a me piace dire che la competenza è autocertificata su di un modulo prestampato, perché tu, per cosa che avrà fatto, presumo la stessa Vandanara, senza nessun tipo di requisiti, senza l'esame, ma senza neanche nessun requisito base, dal punto di vista scolastico, non dico la laurea, sì, senza ma il diploma, senza vogliamo parlare, no, la terza nulla, media, nulla, senza niente. Ma che niente, senza niente, a chiunque. Ma quindi non c'è un po' di maschilismo dietro quello che leggiamo in questi giorni sul caso Icardi? Poi il discorso generale è questo, ci sono anche tanti altri parenti che si stanno improvvisando, procuratori, agenti, intermediari. Ma finché sono i parenti, verrebbe da dire, no, ma c'è di tutti i tipi. Vogliamo parlare un pochino anche, guarda, il termine mi rendo conto è pesante, insomma, ma qualcuno ipotizza che la stessa malavita, le organizzazioni malavitose stiano guardando con interesse a questo fenomeno e che esista e sia in corso anzi un altro fenomeno altrettanto grave, che è quello dell'acquisizione cash delle procure, cioè sembra che ci sia gente che va in giro distribuendo euro ai genitori delle promesse, illudendoli. Ma perché? Perché lo possono fare, perché non ci sono selezioni, non ci sono controlli, non c'è niente di niente. E quindi questi sono gli effetti della sciagurata e disastrosa riforma Blatter, e io sì, ce l'ho con lui, ma lasciamo stare Vandanara, approfitta di questa situazione così come tanti altri. Insomma, non c'è un po' di maschilismo in questo? No. Io non credo. Non da parte tua, intendo, però insomma, io quando leggo sarà certamente un'ottima moglie, ma un pochino mi viene anche in mente che poi, ad esempio, nessuno ha detto del fratello di Higuaín sarà un ottimo fratello, sarà sempre stato molto affezionato, però io credo che quel gran professionista che è Giovanni Branchini faccia una valutazione di merito, cioè probabilmente lui non avrebbe mai esposto, diciamo così, il suo assistito a una situazione che secondo me non ha uscita, insomma, no? Che non è certo che la società Inter si commuoverà o si turberà per questo tipo di dichiarazioni, insomma, il contratto l'hanno fatto, punto, e avanti. Se ne riparla fra qualche mese. Sì, infatti, Branchini ha detto una cosa abbastanza ovvia, insomma, ci vuole anche un po' esperienza e conoscenza dell'ambiente per condurre le trattative, penso che possiamo tutti dargli ragione. Questo è anche il luglio dei malpancisti, li abbiamo messi in fila ieri, ci sono addirittura quelli come Keita e Diawara, giovanissimi, che però hanno il mal di pancia, non si sono nemmeno presentati, mal consigliati o dobbiamo rassegnarci? Ma ai mal di pancia siamo abituati, no? I più famosi sono quelli Zlatan, no? Sì. Di solito, e Zlatan tutto sommato gli obiettivi li ha sempre raggiunti, ma perché? Perché, come dire, era sorretto dalla classe che è dietro la sua immagine, no? Quindi bella forza, lui ha la forza contrattuale di chi veramente si può dare qualcosa di più in campo. Devono stare attenti gli altri che sono campioni, sì, ma non sicuramente conclamati come Ibrahimovic, a dichiarare il loro mal di pancia, no? Perché alle volte certe carriere subiscono delle involuzioni perché le società le affrontano di petto le situazioni. Cioè, se uno ha avuto il mal di pancia una volta, qualcun altro potrebbe farci un ragionamento. Avere il mal di pancia a casa di Lotito, di De Laurentiis, di Pozzo, è difficile, insomma, ecco, perché alla fine non si turbano, non si commuovono, insomma, no? E quindi bisogna conoscerlo un pochino, questo ambiente, prima di dichiarare mal di pancia. Ecco, adesso non dico che sono male consigliati, per carità, però rischiano, la conoscenza dell'ambiente, come Branchini ha puntualmente sottolineato, considerato che Vandanara non ha fatto sinora di professione questo, è un dato importante. Per chiudere, il tema dell'estate, arrivano i cinesi e il campionato italiano torna competitivo anche sul mercato. Poi arrivano i cinesi e dicono: meglio spendere 40 milioni per un ventenne che 20 per un trentenne. Io non so, Claudio Pasqualin, come la pensa? Ma io sono sconcertato come tanti altri, ma non capisco, perché prima dei cinesi i criteri di valutazione erano più concreti, più mi verrebbe da dire più seri, insomma, no? Perché certe valutazioni... Sì, i 40 milioni per Pelé fanno un po' riflettere. Non hanno riscontro nella realtà, no? Perché se anche, voglio dire, se gliene davi di meno, la metà probabilmente accettava lo stesso. Faccio per dire, capito? Cioè non riesco a capire certi criteri. Mi auguro che alla fine al risultato arrivino, no? Ma il risultato lo ottieni o se parti dal calcio di base, istituendo le scuole calcio, valorizzando i tuoi vivai, o portando i campioni, ma campioni quelli veri, insomma, no? Non campioni a metà, come può essere per esempio considerato forse la loro stella numero uno, che allo stato mi risulta essere Hulk, sì. un altro giocatore, che è andato a quasi 20 milioni forse di ingaggio, certo, sì, ecco, quindi, che però in Europa insomma non ha dimostrato di essere un crack, un top player, qualcuno capace di spostare gli equilibri, di valere quei soldi lì. Grazie Pasqualin. A voi, buona continuazione. Grazie a Claudio Pasqualin. Ne sono arrivati di messaggi, c'è chi dice che i procuratori stanno cercando di difendere il proprio mestiere, c'è chi dice che stiamo abolendo gli albi professionali per gli ingegneri e gli avvocati e vogliamo tenere quello dei procuratori. Non lo so, Gaetano, è questo, però il tema Vandanara a me stuzzica. Andiamo sulle strade del Tour. Pier Augusto Staggi, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Allora, oggi si va da Carcassonne a Montpellier. Sì, c'è tantissimo vento ed è un brutto inizio, perché domani c'è il Mont Ventoux, non per niente si chiama così perché lassù soffia violento il vento, il monte ventoso, e probabilmente domani gli organizzatori stanno pensando e valutando attentamente che la tappa potrebbe essere accorciata, potrebbe non arrivare fin cima ai 1905 metri dell'osservatorio, perché soffia il Mistral in maniera violenta ed è troppo pericoloso. Quindi siamo in attesa di conoscere fine della giornata se potremo salire su una delle vette più belle e storiche del Tour de France, una vetta magica, veramente non è retorica, ma chi non conosce il Mont Ventoux ci vada, il gigante della Provenza, il Monte Calvo. Probabilmente domani potrebbe essere così in parte monco, cancellato. Per chi sarebbe un vantaggio? Per Froome, per Quintana, per gli altri che sono lì in mezzo, un po' a sorpresa. Ma sai, diventerebbe il vantaggio è che diventa bisogna correrlo in modo diverso, quindi con rasoiate, con rapporti molto più violenti, potrebbe anche fare anche per certi versi più danni. Però non sarebbe la stessa cosa, perché il microclima del Mont Ventoux è veramente particolare. Non arrivi a 2000 metri, ma c'è l'aria rarefatta come se tu pelassi a 2500 metri. Ci sono delle condizioni proprio ambientali che ti portano ad avere della vegetazione unica nel a certe quote, addirittura sono piante che trovi in Norvegia e in Danimarca. È una pietraia che diventa incandescente quando picchia il sole. Ma con le rasoiate è meglio per Aru? Ad esempio, dai, tiriamo fuori il nostro uomo. Diciamo che Aru spera di fare, come tutti i corridori forti, spera di fare per la prima volta tutti gli effetti il battesimo del Mont Ventoux è di restare lì con i grandi, perché sennò lì rimane il tarlo e poi pensa se dovesse pagare qualcosa in una tappa monca, in un Mont Ventoux ciolito, non più un gigante ma un nano. Non sarebbe né bello, ma non è bello per chi andrà a vincere, non sarà bello neanche per chi perde. Perché dobbiamo fare la danza del vento per sperare che si plachi, ma insomma. Adesso in questo momento il meteo francese dice che sta soffiando il Mistral a 65 km orari, ma domani addirittura prevedono punte di 110 e quindi è veramente terribile. È logico che Christian Prudhomme, che è il direttore del Tour, non ha preso ancora posizione, è costantemente in contatto con gli uomini del meteo e quel suo personale che è già su, non sarà montato nessun tipo di palco come viene fatto tradizionalmente. Si prova almeno a salvare, però, si prova almeno a salvare la tappa, difficile. Esatto, si prova almeno a salvare. Cercare di salvare una tappa che è magica, secondo me, a livello di emozionalità. Domani la raccontiamo, Pier. Domani la raccontiamo bene. È la tappa più bella del tour. Sperando che sia tutta intera. Grazie per Augusto Stagi. Grazie a te, ciao. Grazie per Augusto Stagi, che è comunque questione dei cuori forti. Allora noi parliamo di cuore. In questa chiusura saluto la dottoressa Maria Frigerio, direttore del De Gasperis Cardio Center dell'ospedale Niguarda di Milano. Dottoressa, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori e grazie per avermi convocato. Ecco, convocatissima perché non solo i ciclisti che vanno sul Mont Ventoux, ma un po' tutti mettono il cuore alla prova quando praticano sport, quando fanno il tifo. Cosa si deve fare allora per proteggere il cuore e gli atleti? Radio 24 ha deciso di dedicare un po' di spazio a questo tipo di informazione. Ma diciamo che in Italia gli atleti che fanno sport agonistico sono molto protetti e molto controllati, tant'è che fortunatamente gli episodi drammatici sono rari e abbiamo una normativa in un certo senso più selettiva rispetto agli altri paesi europei. Rischiano di più gli sportivi della domenica e gli spettatori che tifano in maniera eccessivamente sfegatata, ma tutto sommato è anche giusto così. Quello che possiamo fare è rispettare le norme che dicono che ci vuole un defibrillatore, gente capace di usarlo negli impianti sportivi. Cosa che non sempre accade, anche in presenza dei defibrillatori. Sì, purtroppo. E poi controllarci noi prima di fare sport e non sottoporci a degli sforzi ai quali non siamo abituati. E poi quello che possiamo fare tutti noi è andare a imparare a portare il primo soccorso in caso di arresto cardiaco, perché bastano un po' di competenza e due mani. Sì, per fare quelle famose prime manovre che spesso poi possono aiutare ad aspettare che arrivi qualcuno di più esperto. Dove si può imparare? Perché poi tanti vanno su internet, cercano, sì, fanno gli autodidatti, per carità. Però meglio che niente fare gli autodidatti, ecco, bisogna dire. E poi esistono in diverse città, in diversi paesi e anche per esempio presso il nostro ospedale proprio dei corsi di formazione e in particolare l'Italian Resuscitation Council, che vuol dire il gruppo della rianimazione, organizza proprio dei corsi per quelli che noi diciamo i laici, cioè i non professionisti, e addirittura c'è una settimana di iniziativa in autunno, in ottobre, dove tra l'altro si vuole coinvolgere in misura molto larga le scuole secondarie e superiori. Quindi c'è una settimana in cui si parlerà proprio di questo tema specifico e di come prepararsi ad affrontare le emergenze che possono capitare a un amico, a un vicino, semplicemente a qualcuno che in quel momento è accanto a te. Sì, e che io posso dire da medico davvero possono, sì, salvare la vita e cambiare radicalmente la prospettiva di vita. La settimana si chiama Viva 2016 e sarà dal 17 al 23 ottobre. Quindi Viva 2016 dal 17 al 23 ottobre. Per sapere tutto quello che serve a proposito della rianimazione anche senza essere medici professionisti. Grazie dottoressa. Grazie. Davvero e buon lavoro e buon proseguimento. Grazie a lei, grazie alla dottoressa Maria Frigerio, direttore del De Gasperis Cardio Center dell'ospedale Niguarda di Milano. Mi scuso con Gaetano da Pesaro, lo recuperiamo domani. Dopo il GR delle 14, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani, dopo il GR delle 14, ancora qui. Che spettacolo, da brividi!